aiutami a pensare ad essere un padre migliore di quel che penso, e forse non sarò mai, mai, se non riesco a capire ogni desiderio, mai se non posso aiutarti a prendermi cura di te. Aiutami a capire per trovare la serenità, aiutami a restare al tuo fianco. Paura di volare, lo so. Paura di guardarmi indietro, non so, pensami di più e dimmi ancora una volta, ti amo, ti amo. Voglia di camminare, io e te, voglia di stare insieme, si può.